Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Giancarlo Siani è un collaboratore precario del quotidiano Il Mattino di Napoli. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini precisi delineati, dove la camorra si sostituisce allo Stato. Giancarlo Siani proviene dai quartieri alti e ricchi di Napoli, dal Vomero, ma lavora a Torre Annunziata. Torre Annunziata non è un paese, ma una città nella città. Case popolari fatiscenti, cresciute negli anni del boom economico e della speculazione edilizia. Torre Annunziata non è un paese, ma è ancora Napoli. La sera del 23 settembre 1985, le 21:40, Giancarlo Siani sta tornando a casa con la sua auto. I killer della camorra lo attendono sotto la sua abitazione a Piazza Leonardo e lo uccidono. La sua vita di giornalista precario inizia nel 1981. Per la redazione di Castellammare di Stabia de Il Mattino è un corrispondente da Torre Annunziata. Siani scrive di cronaca nera, ma anche di scuola. Del mondo giovanile conosce tutto, ma la sua passione resta la nera, e in particolare le vicende legate alla malavita organizzata nella zona vesuviana. A quel tempo si era appena conclusa la guerra che opponeva la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo ai clan della nuova famiglia dei Nuvoletta, Bardellino e Alfieri, legati a Cosa Nostra. Siani collabora con il bollettino Osservatorio sulla Camorra. Giuseppe Calise, collega del giovane cronista del Mattino. Avevamo un buco nella pagina, facevamo il solito giro, un collega chiamò la questura per avere una notizia da riempire, appunto, un buco. E ci dissero che era stato ucciso un nostro giornalista, Giancarlo Siani, e restammo tutti increduli. Nessunissimo segno, soltanto i segni della camorra che vediamo tutti i giorni. Lui ha cominciato da corrispondente da Torre Annunziata, con un articolo 12 che è un contratto, appunto, di corrispondente. È una, diciamo, in una zona difficile, un comune molto battuto dalla camorra. Giancarlo Siani segue una doppia pista per raccontare scontri e alleanze tra i camorristi che hanno battuto sul campo Raffaele Cutolo. Domenica 26 agosto 1984. È il giorno di San Alessandro. Presso il circolo dei pescatori di Torre Annunziata arriva un autobus carico di killer. Sul cruscotto un cartello: gita turistica. Nella chiesa si sta celebrando per molti bambini la prima comunione. I killer scendono dall'autobus e iniziano a sparare. 8 morti, 7 feriti. Il giorno dopo, Giancarlo Siani racconta la strage sulle pagine di cronaca de Il Mattino. 10 giugno 1985. Sulle pagine de Il Mattino racconta quasi in diretta l'arresto del boss della camorra Valentino Gionta, cantato dai Nuvoletta per patteggiare una tregua con i clan rivali. È il giorno in cui firma la sua condanna a morte, perché svela una realtà infamante per il codice camorrista: il tradimento. Nell'estate dell'85 Giancarlo Siani viene trasferito alla sede centrale di Napoli per una sostituzione stagionale. Lui continua imperterrito a occuparsi di storie di camorra. Passano 3 mesi e viene ucciso. Le indagini del procuratore di Napoli Francesco Cedrangolo sull'omicidio Siani sono immediate. Viene indicato il possibile esecutore. Il 27 settembre 1985 viene arrestato Alfonso Agnello, riconosciuto da un garagista sul luogo del delitto. Ma lui possiede un alibi di ferro. Era stato multato dai vigili urbani a Castellammare di Stabia solo un'ora prima. Dopo un anno, il procuratore generale della Repubblica di Napoli, Aldo Vessia, avoca a sé l'istruttoria e il 19 ottobre del 1987 ordina gli arresti di Giorgio Rubolino, Giuseppe Calavecchia e Ciro Giuliano. Giancarlo Siani sarebbe stato punito per aver indagato sui traffici di Giuliano a Torre Annunziata, ma il castello accusatorio di Vessia cade per insufficienza di prove. E il 22 dicembre del 1988 il giudice istruttore Guglielmo Palmeri proscioglie gli imputati per non aver commesso il fatto. Nel 1993 si è vicini alla verità. In seguito alle rivelazioni del pentito Salvatore Migliorino, il PM antimafia Armando D'Alterio riapre le indagini. Migliorino dice di conoscere i killer che uccisero Siani. D'Alterio inizia ad indagare sul connubio tra politica e camorra nella gestione del territorio vesuviano. È l'inizio di Tangentopoli. Sindaci, amministratori locali, funzionari e camorristi finiscono in carcere. Da questo filone di indagini emergono le responsabilità per il delitto Siani. Il giovane abusivo De Il Mattino aveva svelato il connubio tra politica e criminalità nella gestione del territorio di Torre Annunziata. Il mercato ittico, il controllo del porto, la bonifica del quartiere Quadrilatero, le carceri, la ricostruzione del dopoterremoto in Irpinia del 1980. Dicembre 1994. Domenico Bertone, ex sindaco socialista di Torre Annunziata, e il boss Valentino Gionta sono indagati per l'omicidio Siani. L'accusa per Bertone finirà archiviata. 15 aprile 1997. La seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condanna all'ergastolo i mandanti dell'omicidio di Giancarlo Siani. Angelo Nuvoletta, Valentino Gionta e Luigi Baccante. E gli esecutori, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La Corte di Cassazione confermerà tutte le condanne, tranne quella di Valentino Gionta, per il quale è stato necessario un secondo processo d'appello. Il 29 settembre del 2003, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli conferma la sentenza di ergastolo per Gionta. Tutto chiaro? Non precisamente. Sono molte le zone d'ombra del delitto di Giancarlo Siani. Il giornalista raccontò gli affari della camorra in un ambiente difficile, stretto tra censure, minacce e disinteresse. Ma certe volte l'arte ci viene di aiuto. E io ti seguo è il film dedicato al delitto Siani, diretto dal regista Maurizio Fiume. Vedi, sono divertiti, guarda, guarda. Devono essere almeno in due. Senti, oltre a questo omicidio, ci sono altre notizie? Ah no, niente di importante. C'è la protesta di un gruppo di terremotati al comune, lo sciopero di un istituto professionale. Non ho capito, sono responsabile. Fammi un pezzo, 40 righe e basta. Di che ti occupi? Sono già annunciato. Ma tu non sei di Torre? No, sono di Napoli, vengo dal Vomero. Per lavorare in questo giornale o conosci qualcuno, stai pesce. Tu vuoi conoscere la verità sul Torre? No, io non voglio conoscere tutta la verità, ma mi piacerebbe poterla scrivere. Con quell'articolo ci ha buttato addosso la calunnia dicendo che noi siamo infami. E per questo si deve essere puniti. Gianca, senti, tu ti ricordi quello che ti ho detto qualche giorno fa al telefono? Non ti tenete niente per me. E se lui ha le prove, le tiri fuori! Credo che l'unico modo per sbatterlo fuori sia dimostrare che prende i voti della camorra. Potere scambi. Proprio quello. Ci sarà un modo per buttarlo fuori a questo? Effettivamente negli ultimi tempi sta esagerando un pochino. Secondo me a Napoli darebbe meno fastidio. Io vado al bar, voglio prendere un caffè? No, ti ringrazio, vorrei finire quest'articolo. Aspetta, qualcosa che non va? No, no, perché sto trovando una chiusura. Ecco qua. Finito? No, finito no, ma quasi. Io devo andare a Napoli, non c'è un minuto di tempo. Per il regista Maurizio Fiume, il film Io ti seguo si basa esclusivamente su carte processuali, verbali di interrogatorio e sugli articoli di Giancarlo Siani. Lo racconto un clima, come dire, di latitanza, essendo Giancarlo Siani un personaggio anomalo, ma anomalo anche semplicemente per il fatto che appunto era uno che è scrupoloso, pignolo, che lavorava e quindi in una redazione in un modo di lavorare diciamo un po' napoletano, insomma dava fastidio anche semplicemente questo, c'era come dire Siani era vista come una mosca bianca un po' da tenere d'occhio. Io comunque sono partito dalle carte processuali e per me le carte processuali, come ho più volte precisato, sono tutte le carte che hanno determinato l'inchiesta, l'ultima inchiesta. La ricostruzione delle infrastrutture dopo il terremoto del 1980 interessa tutta l'area. Il 27 aprile del 1981, nel garage di Via Cimaglia, a Torre del Greco, le Brigate Rosse di Giovanni Senzani sequestrano l'assessore ai lavori pubblici della Regione Campania, Ciro Cirillo. Nell'azione perdono la vita un agente di scorta e l'autista. Ciro Cirillo è un uomo vicino ad Antonio Gava, viene tenuto nascosto per 89 giorni. Lo Stato, attraverso i funzionari dei servizi segreti, avvia trattative con Raffaele Cutolo, detenuto nel carcere di Ascoli Piceno. Cirillo è delegato alla ricostruzione del post-terremoto. Un gigantesco affare, troppo interessante per Cutolo. Tra poco dopo la pausa, Giallo e Nero racconta l'omicidio di Giancarlo Siani. Giallo e Nero, di Daniele Biacchessi. Giancarlo Siani ricostruisce le trame del potere camorristico, le alleanze politiche affaristiche. Sono equilibri che vengono messi in pericolo dalle sue cronache, che partono proprio dalle tangentopoli o pontine, come ci racconta Bruno Rinaldi, ex capo della squadra mobile e responsabile delle indagini nel processo d'Alterio. Lei penso che sappia che quegli accordi che scaturirono dalla liberazione di Cirillo e che ebbero poi un seguito appunto nella suddivisione degli appalti fra i vari clan camorristici in Campania, ebbe tra i fatti più caratteristici l'appalto per esempio a tutti i fondi FIO, i fondi europei, i fondi per la ricostruzione, ci sono stati moltissimi appalti scoperti e chiaramente confessati poi addirittura dagli imprenditori e dagli stessi camorristi che videro luogo a questi fatti, insomma, e anche dai politici stessi che poi alla fine hanno confessato. Io che ho svolto proprio l'indagine in prima persona, quindi diciamo che le ho seguite dall'inizio alla fine. Dalle indagini emerge che Siani lavora ad un dossier e ad un libro sulla malavita a Torre Annunziata. Il giorno dell'omicidio Siani chiama Amato Lamberti, fondatore dell'Osservatorio contro la Camorra, è preoccupato, vuole raccontargli qualcosa di importante. Ecco come Lamberti ricorda l'ultimo contatto con Giancarlo Siani. Dopo Giancarlo, gli studi andavano a rilento, quindi era interessato a fare questa ricostruzione per conto dell'Osservatorio, per farne, diciamo, un articolo, un saggio, eventualmente diciamo anche qualcosa di più, un libro. Mi doveva consegnare per la rivista Osservatorio sulla Camorra un secondo saggio, dopo il primo che è stato pubblicato, e sull'intreccio appunto politica Camorra appare a Torre Annunziata, ma proprio il giorno in cui è stato ammazzato, io l'ho sentito verso le 2, lui mi chiamò e io non lo feci parlare molto, gli chiesi subito, diciamo, che fine aveva fatto l'articolo del giornale. La notizia dell'omicidio Siani sconvolge la redazione del Mattino. Pasquale Nonno, allora direttore del quotidiano, nella sua dichiarazione dettata a caldo alla RAI dopo l'omicidio di Giancarlo Siani. Una grande responsabilità, e come ho sentito una grande responsabilità nel primo pezzo che ho scritto a caldo la sera stessa dell'assassinio di Giancarlo Siani, io sento anche una responsabilità, forse dovevamo consigliare una maggiore cautela, però dico, credo anche da quello che dicono loro si capisce che questo giornale, questo vecchio giornale di Napoli, è un giornale che è in grado di fare il suo lavoro. E che significa una maggiore cautela? Ma sai, non si può, questo episodio tragico non ci sta a spiegare come non si deve fare il giornalista, ma ci sta a spiegare come si deve fare il giornalista. Cioè, uno che fa il soldato deve usare le armi da fuoco, quando si usano le armi da fuoco bisogna stare attenti. Mi dovremmo fare, voleva... Sì, scusa, insisto, perché tra l'altro i colleghi di Siani che hanno parlato poco fa hanno detto che il ragazzo non stava preparando cose clamorose. Adesso da parte tua viene una sorta di invito alla prudenza che può essere letto anche come un invito all'autocensura. Stai leggendo male, se hai letto questo hai letto male, perché io ho spiegato così chiaramente che non vedi... Beh, no, mi dispiace, io leggo, ho sentito perfettamente, comunque è sembrato... E credo non solo a me che tu abbia detto che in fondo forse il ragazzo ha commesso qualche errore. Non è vero, io può anche darsi che l'abbia commesso, però questo a me fino adesso non mi era risultato e non mi sembrava nemmeno dalle parole. Stai facendo, scusami, se mi permetti, ci conosciamo da 20 anni, stai facendo un cattivo giornalismo perché mi stai attribuendo una cosa che io non ho detta. Io non ho parlato affatto di quello che ha fatto Giancarlo Siani. Io ho detto ci vogliono delle norme di prudenza. E anni dopo Pasquale Nonno a Radio 24 ricorda che quella notte si dice contrario ad aprire il giornale con la morte di un suo collaboratore. Io mi ricordo, stavo a teatro quando mi hanno dato questa notizia. Cioè, io a tutto ho pensato, quando mi hanno detto hanno ucciso un tuo giornalista, tranne Cassiani, insomma, perché c'erano tanti giornalisti che facevano proprio ufficialmente un mestiere pericoloso, a contatto. Siani era un piccolo collaboratore, insomma, ecco. Cioè, rispetto al giornale era poca cosa. Lui disse che mi doveva dire una cosa, disse che c'era qualche cosa, che poi fosse una cosa molto importante, non lo so. Purtroppo non ha fatto in tempo a dirlo. Tu non puoi fare politica in certe zone senza avere a che fare con la camorra. E tantomeno contro la camorra. Puoi non essere colluso con la camorra, ma se ti metti contro non cambi più, non vieni eletto, non fai politica, ecco. Prima di essere ucciso, Giancarlo Siani si era iscritto al Partito Radicale. Lo ricorda alla Camera l'ex deputato Gianfranco Spadaccia, il giorno in cui torna ancora l'emergenza criminalità organizzata a Napoli e in Campania. Noi siamo particolarmente scoperti, non tanto su Napoli quanto sull'area metropolitana di Napoli, che è un'area che credo abbia il doppio della popolazione. Ha città come Nola, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, non è un territorio, è una vera e propria banlieue metropolitana di grandi dimensioni. Qui operano 2.000 agenti di pubblica sicurezza rispetto, mi pare di aver compreso, queste sono le cifre percentuali che ho fatto, rispetto ai 7.000 che sono a Napoli, significa che siamo particolarmente scoperti. Noi siamo più che mai convinti che il problema della lotta della camorra passa attraverso la soluzione dell'affrontare coraggiosamente il problema della gestione della giustizia a Napoli. Il mistero italiano di Giancarlo Siani si imbatte ancora oggi contro un muro di gomma. Le indagini hanno sconfitto i camorristi, ma non i loro legami con la politica. Ma restano ancora impresse su carta le parole scritte da Giancarlo Siani nel suo ultimo articolo. Analisi elaborate anni prima delle più recenti polemiche sulla camorra Napoli. Li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby. Un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Il ragazzo di 12 anni di Torre Annunziata non è né il primo né l'unico caso. A maggio scorso il caso di Gennarino di Secondigliano, a 10 anni forzato della droga. Ma tanti altri ancora. Quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi. I muschilli sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio. Sfuggono al controllo di polizia e carabinieri, ma soprattutto sono minorenni. Anche se trovati con la bustina di eroina in tasca non sono imputabili. Ed ecco che il meccanismo perverso dello spaccio di droga li coinvolge. Generalmente si muovono seguiti a poca distanza dal manager spacciatore. Contattato il tossicodipendente, parte la staffetta con la droga, consegna, incassa i soldi e torna. A Torre Annunziata la stessa tecnica. A dirigere il ragazzo era la nonna. Come del resto faceva 5 o 6 anni fa quella madre a San Biagio dei Librai a Napoli che si serviva dei 3 figli per portare in strada l'eroina, fino a quando non è stata arrestata. Ragazzi, molto spesso bambini, già inseriti in un giro di droga. Per loro quale futuro? Se non diventano consumatori di eroina, se riescono a sopravvivere, è difficile che possano imboccare altre strade che non siano quelle dell'illegalità, dello spaccio diretto, dello scippo, del furto. E in provincia di Napoli lo spaccio della droga è diffuso, ramificato, controllato dai grossi clan della camorra. A Torre Annunziata un traffico che fino all'agosto dello scorso anno era direttamente gestito dal boss Valentino Gionta. Dai grandi distributori alla vendita al dettaglio. Ed in questa seconda attività è più facile organizzarsi in proprio. Poche bustine per guadagnarsi da vivere, ma l'eroina entra in casa, diventa familiare, anche per i ragazzi. Thank you. giallo e nero. Un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.